9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 22 di febbraio. Ci occupiamo oggi di paradisi fiscali e tenteremo di capire innanzitutto che cosa sono davvero questi paradisi fiscali, cioè tenteremo di capire se questa definizione così carica evocativamente di qualche cosa di eticamente scorretto, di una carica diabolica che invita naturalmente a peccare, a violare la legge, a commettere quell'atroce delitto da additare sempre all'esecrazione pubblica che è l'evasione fiscale, attraverso il mascheramento dei dati consentiti e dei redditi consentiti da ordinamenti compiacenti, tenteremo di capire se dietro questa formula non vi sia qualche cosa di leggermente diverso da tutta questa moralità esibita e dichiarata. Da chi? Dagli stati che naturalmente da 2 anni a questa parte sono alle prese con un problema fondamentale, quello di accrescere ulteriormente il proprio prelievo, di ramazzare tutto ciò che in tempi ordinari faticavano ma non si prodigavano troppo a recuperare. Però da 2 anni a questa parte l'esplosione dei deficit pubblici, del debito pubblico di fronte al ruolo crescente dello Stato per il sostegno della domanda e dell'offerta per l'economia in crisi, ovviamente ha fatto cambiare registro alla grande campagna internazionale nei fori internazionali contro i cosiddetti paradisi fiscali. È una questione che di volta in volta si riaccende, è una questione che spesso rimbalza su le cronache italiane. Gli italiani lo sappiamo, noi spesso in questa sede lo ripetiamo, agli italiani viene detto che loro hanno una atavica propensione ad aggirare più le tasse, che è smentita dai dati comparati internazionali. Ciò malgrado nel dibattito pubblico italiano si sente spessissimo dire che il problema fondamentale di questo paese è che noi aggiriamo gli ordinamenti fiscali più di tutti gli altri paesi. Non ho mai capito da che cosa nasca questa autoconvenzione, ma ho sempre capito che fa molto comodo alla politica in carica pro tempore di destra o di sinistra, perché dividendo gli italiani così è molto più facile stangarli. Detto tutto questo, però, lo faremo senza polemiche sulla politica quotidiana, ma per capire davvero che cosa sta avvenendo. Lo faremo partendo da vicende internazionali che hanno riguardato grandi paesi come la Germania, gli Stati Uniti, che negli ultimi anni e di nuovo in questi mesi, come vedremo, sono alle prese con decisioni moralmente delicate, cioè quelle di pagare degli funzionari corrotti e infedeli di grandi banche, del Liechtenstein o della Svizzera, per mettere le zampe su migliaia o milioni magari di dati e poi diffonderli tra altri paesi. Ci chiederemo se è giusto o non è giusto. La maggioranza, immagino, penserà che sia giusto, però lo faremo alla luce di alcune domande un pochino tecnicamente più serie del solito dibattito moralistico. Cioè, in realtà, per chi si occupa di questi ordinamenti e per chi sa come può funzionare nei grandi paesi che formalmente fanno la lotta ai paradisi fiscali, si battono nell'OCSE per le cosiddette liste nere che poi non si sono mai prodotte, in realtà non è così difficile creare, incardinare società ed evadere ed eludere, voglio dire evadere, ma quantomeno eludere il fisco, anche in questi stessi paesi del G7 e del G8, che pure sono in prima fila in questi anni nella lotta ai paradisi fiscali. Quindi bisogna chiedersi un po' più a fondo che cosa tutta questa guerra internazionale evochi davvero, se non sia semplicemente mettere le mani su denari impiegati in ordinamenti che offrono rendimenti e tutela della riserva dei dati maggiori di quelli dei paesi statalisti ad alto prelievo, e questo però non avrebbe molto a che vedere con impostazioni etiche, sarebbe un'impostazione fattuale, per così dire, di recupero di impieghi considerati impropriamente crediti, per così dire, o se invece siamo davvero in vista di una trasformazione dell'ordinamento internazionale per cui ciò che è stato ampiamente tollerato per secoli, non direi solo decenni, si sta avviando a finire. Cioè, se siamo davvero entrati in una fase del mondo dopo la grande crisi per la quale non si può più tollerare, per così dire, che vi siano ordinamenti a più basso prelievo dell'aliquota marginale, a tutela dei dati, dei depositi bancari, a procedure iper semplificate, bisognerà vedere quanto semplificate, per la costituzione di società. Perché poi impariamo che non c'è solo un paradiso fiscale, ci sono i paradisi fiscali che vuol dire certe cose, le vedremo oggi, ci sono i paradisi societari che vogliono dire tutt'altre cose, ci sono i paradisi penali e sono qualcosa di diverso ancora. Ecco, tutti questi interrogativi, ma prima di presentarvi i nostri ospiti vi faccio sentire qualche qualche secondo di una canzone provocatoria che ho trovato frugando l'ultima settimana nei siti di protesta fiscale italiana, e a mia conoscenza è la prima volta che ci sia una produzione popolare, ma di un certo livello musicale, come vedrete, perché in realtà è una questa canzone dialettale viene cantata sulla base di One Night, un vecchio brano famosissimo di Elvis Presley. Non mi era capitato però di vedere che ormai c'è gente che fa dei veri e propri inni all'evasione. Vi propongo di sentirla un pochino, siccome è in dialetto e credo che sia incomprensibile per i più, tranne che nel nord-est, però io approfitto per poi darvi la traduzione non appena c'è il verso. Ecco, si chiama Viva l'evasione e andiamo a sentirla. Pensa 50 anni. Sono già 50 anni. Chi vogliono riformare il paese? Che vogliono riformare il paese? Chi parla niente parla mai? Che chiacchierano in Parlamento? Chi vogliono far contento? E mi vogliono far contento. Parla protezione. Con il protezionismo ti obbligano la cintura di sicurezza in macchina, ti mettono gli interessi sulla tassa dell'immondizia e tu sei costretto a mangiare pane e sputo. Ma che società, ma che bella società, i fiori sono i ricchi e i poveri vieni il radison. I poveri le radici. E ogni giorno sei sempre lì dietro. La televisione urbe, già 50 anni. In TV a blaterare, sono già 50 anni. Che blatteri di riformare il paese. Parlamento. Ma me son via con te. Ma io non sono contento. Ma che succede? I fiori in sur e i poveri vieni in radison. Tu di te te sai parlare da tre. Sagami al sinjon, accapse vite un bel mouton, la tassa laisse et sa condition, et viva, viva, viva l'évasion. Ecco qua, lo avete sentito, viva l'evasione contro la tassa senza ragione. L'ho fatta ascoltare perché è una curiosità, però è una curiosità che fa capire come dietro poi alla richiesta di prelievo sempre crescenti, in realtà la sensazione è che gli italiani, lo vedremo con la polemica sui dati dello scudo fiscale di questi giorni, continuino ad avere un'opinione poi come quella che viene propalata sui giornali sulla eticità dell'adesione spontanea a un prelievo così elevato. E quindi ve l'ho fatta sentire apposta questa canzone. Allora, dopo questo po' di colore, gli ospiti di oggi. Abbiamo con noi Giuseppe Marino, che ha scritto un volume che io vi indico per la lettura se volete capirne davvero di più. Si intitola Paradisi e paradossi fiscali, il rovescio del diritto tributario internazionale. L'editrice è Egea. E Giuseppe Marino insegna diritto tributario alla Statale di Milano ha anche un incarico in Bocconi. Il libro non è solo per addetti ai lavori, lo dico perché il diritto tributario, naturalmente, soprattutto quello oltretutto comparato, è una materia abbastanza araba di solito considerata, cioè molto complicata. Questo è un libro che ha il pregio di consentire la comprensione in maniera graduale, prendendo per manina anche chi non ha grandi fondamenti di diritto tributario. Buongiorno professor Marino. Buongiorno a lei. Poi abbiamo Lino Ternizzi, che è corrispondente del Sole 24 Ore dalla Svizzera. Buongiorno Ternizzi. Buongiorno. Al quale chiederemo di aggiornarci sulla guerra tra Germania e Svizzera per l'attacco tedesco alla tutela della riservatezza dei dati sui conti bancari nella Confederazione Elvetica, e poi il professor Carlo Lottieri, che insegna dottrina dello Stato all'Università di Siena ed è ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno professor Lottieri. Buongiorno. Allora, iniziamo dal professor Marino. Lei fa una vera e propria guida comparata e la fa da un punto di vista che a me piace molto, cioè da un punto di vista del realismo, non quello dell'eticismo, perché dimostra come dietro tutta questa svolta degli ultimi due anni ci sia, lei non lo scrive così, lo dico io, un po' di ipocrisia. Possiamo dire perché, professor Marino? Ma l'ipocrisia che lei accennava è quella naturalmente che porta tanti stati oggi a fare delle guerre che non esistevano fino a qualche anno fa o che esistevano solo sulla carta, no? Appunto Paradossi vuole intendere, vuole indicare quegli stati a partire dagli Stati Uniti d'America, ma poi anche a finire al nostro più modesto sistema tributario italiano, che sparano contro questi paradisi, ma che in realtà agiscono anche come tali o usufruiscono di questi altri sistemi che ho raccontato. Vale per tutti l'esempio di un Joe Biden, vicepresidente della Casa Bianca, oggi in carica, che è sempre stato il rappresentante dello Stato del Delaware, che nelle ultime ricerche internazionali è ancora additato come uno Stato dove appunto vige un'opacità in quanto ad apertura di conti correnti tra i più alti al mondo. Oppure il nostro sistema tributario che all'aggressività che dimostra in questi anni verso i paradisi fiscali, la Svizzera, Monte Carlo, il Liechtenstein, in realtà continua ancora a tassare il capitale al 12,50% e ha una tassazione sulle successioni che è praticamente modestissima, e anche questa non ha pari al mondo. La stessa Svizzera, o meglio lo stesso accanimento con la Svizzera, mi sembra paradossale, gli Stati Uniti fanno la guerra alla UBS, però nello stesso tempo la Svizzera rappresenta gli interessi americani nei confronti dell'Iran, con il quale appunto gli Stati Uniti non hanno ufficialmente rapporti, il che lascia evidentemente intendere che tutti gli affari internazionali che si chiudono con riguardo all'Iran e che possono avere degli interessi americani sono filtrati, guarda un po', proprio dalla Svizzera. Anche la Santa Sede non può esimersi da questa panoramica. Mi viene in mente appunto questo documento presentato per il Doha Round del 2008, in cui la Santa Sede spara contro i paradisi fiscali, e dicendo che appunto distorcono l'economia internazionale, o meglio l'economia sociale internazionale, che deve essere votata all'uguaglianza e al benessere. Però l'ultimo appunto volume Vaticano S.P.A. di un collega mette in luce appunto il grande ruolo che lo IOR ha avuto nel riciclaggio della madre di tutte le tangenti, quella Enimont. Quindi voglio dire, si fa sempre grande pubblicità negativa nei confronti di questi paradisi fiscali, però andando a fare le pulci, proprio coloro che attaccano i paradisi fiscali ammiccano agli stessi e tentano evidentemente di sottrarre proprio quei capitali, quelle risorse che nei paradisi fiscali vanno appunto a custodirsi. Lei nota, tra l'altro, venendo subito anche al caso italiano, come nei provvedimenti fiscali, al di là della conclamata lotta all'evasione, in realtà poi andiamo a vedere come l'ordinamento è cambiato, per esempio in materia di diritto societario di IRES, rispetto a quello internazionale. Lei fa il caso della participation exemption. Vogliamo spendere qualche parola per fare capire anche a chi tecnicamente non è molto versato come con questi interventi in realtà si tenta di inseguire, per ragioni che possono essere anche comprensibili, poi gli ordinamenti, proprio quelli ai quali poi si fa la lotta città, una volta che naturalmente si assume che le plusvalenze realizzate da società di capitali o enti commerciali con la cessione di partecipazioni in società, sia residenti che non residenti, sono in esenzione e non sono in tassazione, in imposizione delle plusvalenze. Non è un po' così, cioè si fa una cosa nell'ordinamento che è un po' diversa da quella che si dichiara nelle campagne. Assolutamente sì, io ricordo nei primi anni 90 quando gli inferni fiscali dalla prospettiva italiana erano considerati il Lussemburgo, l'Olanda, che appunto all'indomani della liberalizzazione valutaria appunto del 1990 erano divenuti parcheggi di grandi holding e vie di transito per gli investimenti che gli imprenditori italiani facevano verso l'estero, e quindi venivano additati come quei paesi che sottraevano delle risorse degli investimenti in virtù appunto di questo meccanismo della participation exemption, che altro non è che un metodo per eliminare le doppie imposizioni economiche che si possono generare quando uno effettua degli investimenti che sono oggetto di tassazione in più stati. E naturalmente le doppie, addirittura anche le triple o le quadruple imposizioni distorcono evidentemente gli investimenti internazionali, quindi stati più moderni, a vocazione storicamente di esportazione o di transito degli investimenti come il Lussemburgo, ma ancora meglio l'Olanda, piuttosto che non l'Inghilterra, hanno da tempo risolto questo fenomeno della doppia o della tripla imposizione attraverso appunto il metodo dell'esenzione. Metodo dell'esenzione che in Italia, paese storicamente meno incline a essere considerato esportatore di capitali certamente anche paese di transito dei capitali, non ha mai considerato, ha piuttosto cercato di risolvere le doppie imposizioni solo a livello domestico attraverso il metodo del credito d'imposta. Appunto, quando sono saltate le barriere valutarie nel 1990 si è trovata in crisi questa Italia con i propri investitori che molto più rapidamente sono andati a parcheggiare i propri capitali all'estero o i propri investimenti produttivi attraverso queste holding lussemburghesi e olandesi. Abbiamo dovuto attendere il 2003 appunto con la riforma dell'IRES, come lei citava, con il professor Tremonti, che ha detto basta a questa fuga di capitali verso l'Olanda e il Lussemburgo, che per dare diciamo la sensazione in termini pratici di che cosa significava, addirittura portava gli alberghi olandesi di Amsterdam a parlare italiano. Quante volte mi sono trovato ad Amsterdam negli alberghi a 4-5 stelle con tutto il personale che parlava italiano, no? Una polemica questa, o meglio una constatazione che ritorna oggi quando il ministro Tremonti dice che nelle banche slovene o austriache vi sono addetti italiani. È un dato sociologicamente interessante per capire che frequenza vi è appunto degli italiani all'estero. Ebbene, il professor Tremonti finalmente ha detto basta a questa fuga di capitali. Soprattutto anche alla frequenza di società o fiduciarie che dall'estero controllano le imprese italiane, per ovvi motivi di convenienza. Assolutamente sì, anche perché da quella che poteva essere una fisiologia, e cioè andare a fare degli investimenti all'estero approfittando di meccanismi offerti dall'Olanda o dal Lussemburgo, si è trasformata in una patologia quando io in realtà vado in Olanda o in Lussemburgo soltanto per tornare poi indietro in Italia, e quindi realizzare una triangolazione che certamente è sintomatica di elusione. La fermo un secondo perché ora andiamo in pubblicità. Chiedo a voi che siete a casa, siete d'accordo col fatto che nel nostro ordinamento c'è stata l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, e cioè è stato introdotto il principio, anche da questo governo, secondo lo quale tutte le attività detenute in eventuali paradisi fiscali, considerati tali dall'ordinamento italiano, tutte quelle attività detenute da cittadini italiani, lì vengono considerate oggi dal nostro ordinamento, si presumono conseguite con redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo che sia il contribuente a dover riuscire a dimostrare all'amministrazione fiscale il contrario, altrimenti voi siete automaticamente evasori. lotta ai paradisi fiscali, ci stiamo occupando degli aspetti un po' paradossali, proprio partendo da questo libro, Paradisi e paradossi fiscali, del professor Giuseppe Marino, Il rovescio del diritto tributario internazionale. Lo avete sentito, ma intanto chiediamo adesso a Lino Terlizzi di raccontarci un pochino gli ultimi sviluppi della fase più recente della guerra in Europa, una vera e propria guerra mondiale poi, contro i paradisi fiscali, cioè quella che, dopo il caso da cui parte tutto 2 anni fa, lo ricordate, la decisione tedesca, dei servizi tedeschi, del governo tedesco, di pagare milioni di euro per assicurarsi i dati da un offerti, per così dire, sul mercato nero internazionale da un funzionario infedele di una grande banca del Liechtenstein. Oggi è in corso, nelle ultime settimane, uno scontro molto duro con l'intervento di ministri di primo piano tedeschi come Schäuble e di ministro della Confederazione Elvetica, in cui il caso è analogo. Terlizzi, come siamo messi con attualmente con questo scontro tra Germania e Svizzera, con l'UBS sullo sfondo? Sì, diciamo che a differenza del caso del Liechtenstein, per ora non ci sono riferimenti alla persona, all'ex collaboratore di una banca svizzera, appunto in questo caso, che avrebbe sottratto, avrebbe rubato, come dicono in Svizzera più direttamente, i dati e li avrebbe poi offerti, li ha poi offerti alle autorità tedesche. Però si sta negoziando, è un negoziato difficile ovviamente in questo contesto. I ministri svizzeri e quelli tedeschi stanno parlando, ci sono state delle riunioni, ci saranno ancora. Qual è la posizione tedesca? Prevalente all'interno del governo tedesco, anche se poi ci sono posizioni differenziate, perché per esempio il ministro degli esteri Westerwelle non è tanto d'accordo sull'acquisto di questi dati. Lo sono invece il ministro delle finanze Schäuble, lo stesso cancelliere Angela Merkel. Ecco, diciamo, la diciamo che i liberali dell'FDP sono contrari, insomma i democristiani insomma sono pratici, sono favorevoli. Ecco, diciamo che questa è la posizione prevalente per ora all'interno del governo tedesco. Qual è la posizione svizzera? La posizione svizzera è ovviamente contraria all'utilizzo, all'acquisto di questi dati. La Svizzera dice: se ci sono dei casi fondati, dei sospetti concreti di frode o di evasione fiscale, fateci una richiesta di assistenza amministrativa o giudiziaria, noi, come abbiamo fatto in altri casi, la prenderemo in occasione, ma non alimentate questo mercato dei dati rubati, perché, questa è la posizione di Berna, a questo punto non si finisce più. Ed è una cosa che coinvolge i paesi che hanno più o meno il segreto bancario oggi, ma potrebbe coinvolgere anche altri paesi. Per esempio, una piazza di cui si parla meno da questo punto di vista, che è la piazza britannica, quella londinese in particolare, ha tutt'oggi una fiorente industria dei trust che, d'accordo, non sono la stessa cosa del segreto bancario, ma hanno un alto elevato tasso di riservatezza, si basano molto sulla tutela della privacy. Ecco, quindi anche da questo punto di vista, se si alimenta questo meccanismo, si dice in Svizzera, non si finisce più e attenzione, si crea un mercato che premia chi ruba i dati. I colloqui sono in corso, vediamo, la Svizzera propone di risolvere tutto questo anche attraverso la firma di un accordo cosiddetto sulla doppia imposizione, che è poi lo strumento pratico che la Svizzera sta usando non solo con la Germania ma anche con altri paesi, che vorrebbe usare anche con l'Italia, per recepire il suo recente allineamento agli standard dell'OCSE di lotta all'evasione fiscale. Cioè, in altre parole, il segreto bancario c'è ancora in Svizzera, ma è stato allentato nel corso del tempo e quest'ultima adesione lo ha allentato ulteriormente. Quello che la Svizzera non vuole è rinunciare totalmente al segreto bancario, perché così come oggi, si dice a Berna, assomiglia molto alla tutela della privacy e questa viene reputata legittima. Io ricordo a chi è in ascolto che proprio con i paesi che fanno parte dell'Unione Europea e che, quindi a differenza della Svizzera, sto parlando in questo caso per esempio del Lussemburgo, e che sono soggetti all'euro ritenuta, sono quelli indicati dal ministro Tremonti recentemente anche in una lettera formale ufficiale al presidente dell'Ecofin come i paesi che dall'euro ritenuta per l'IRES delle società detenute da e controllate da cittadini italiani in essi costituiti ai fini di avvalersi delle maggiori facoltà dell'ordinamento societario dell'imposizione fiscale, ecco, il provento da euro ritenuta ha scritto, ha messo nero su bianco Tremonti chiedendo all'Ecofin di di fare qualche cosa, sono infinitamente più bassi di quelli che sono i conti dell'Agenzia delle Entrate. Quindi il meccanismo della doppia imposizione è esattamente quello che la Svizzera indica come la sua maniera per fare compliance senza venir meno la tutela del segreto bancario, dando quindi una parte della cedolare secca ai paesi di provenienza dei cittadini che aprono conti in Svizzera. E lo stesso meccanismo che però per quello che riguarda l'IRES il ministro Tremonti indica come uno strumento inadeguato per i paesi come il Lussemburgo. Questo dà l'idea di quanto sia complicata poi la soluzione del problema tecnico della doppia imposizione, e se ne occupa molto a fondo il professor Marino nel suo libro. Professor Lottieri, dal punto di vista diciamo così di una prospettiva evolutiva degli ordinamenti, il fatto che ci siano ordinamenti come quelli della Svizzera, che si sono sempre ben guardati dal voler fare del franco svizzero una valuta di riserva, una valuta in cui sono denominati commerci mondiali, e però un solido posizione internazionale e il rappresentare una specie di porto, di ancora di salvezza per minoranza religiosa nella storia, per... Io ricordo tutti che la tutela del segreto bancario in Svizzera nasce per la possibilità offerta a chi era protestante, calvinista e luterano, mentre in Francia e in Germania si passava a fil di spada per le guerre di religione di tutelare i propri capitali. Questa è la ragione storica, oltre al salvataggio dei patrimoni degli ebrei di fronte ai nazisti e così via, e anche al salvataggio dei soldi dei nazisti presi dagli ebrei, come poi anni fa c'è stata la soluzione al problema. Ma professor Lottieri, da questo punto di vista, in una prospettiva un pochino più lunga, evolutiva degli ordinamenti, quali sono le considerazioni a cui la ispira questa guerra contro coloro che in realtà nei secoli hanno rappresentato più un porto a tutela delle libertà contro le pretese eccessive degli stati? Ma io farei una considerazione molto generale riguardante lo Stato moderno per come si è imposto. In qualche modo lo Stato moderno, con teorici come Hobbes, si proponeva come la risoluzione del conflitto e la risoluzione della molteplicità. La tesi di Hobbes è che in assenza di Stato sarebbe stata la guerra di tutti contro tutti. Ma la soluzione di Hobbes in qualche modo era una soluzione molto parziale, perché questo valeva come sovranità interna, poi a livello internazionale si restava, per così dire, in un mondo hobbesiano. Cioè c'era un certo di competizione tra ordinamenti che garantiva anche questa possibilità di fuggire ad esempio degli ordinamenti più liberali come persone ma anche come capitali. Insomma, quando si parla di paradisi fiscali bisogna sempre ricordare che vengono definiti tali appunto in rapporto agli inferni fiscali, cioè i soldi prodotti da individui, imprese cercano rifugio laddove c'è un maggior rispetto nei confronti appunto della proprietà privata. Bene, la logica però di Hobbes oggi avanza e noi stiamo conoscendo appunto un meccanismo molto barocco, complicato, ma che come dire, ha una certa efficacia, tutto sommato, di unificazione giuridico-politica a livello globale. I ceti politici si stanno cartellizzando, diciamo così. L'idea di armonizzare i sistemi fiscali, giuridici è nell'interesse del ceto politico. Se noi abbiamo all'interno di una società una parte produttiva, una parte che vive sulla produzione degli altri, la mobilità dei fattori non è una bella cosa. E allora si cerca, lo si fa a livello europeo, ma lo si fa anche a livello globale, di sconfiggere i paradisi fiscali, ma più in generale direi la concorrenza istituzionale, il fatto che ci siano sistemi come dire, più esosi e altri meno, cercando appunto di uniformare il tutto. Non è una bella notizia per le libertà individuali, nemmeno per la possibilità di crescere. Ora vediamo un po' come la pensano un po' di ascoltatori. Sentiamo per esempio Stefano dalla provincia di Roma. Sì, dunque io volevo semplicemente dire che era una questione a livello comunitario di diritto comparato. Per quello che riguarda un cittadino che paga le tasse, un dipendente come me, e una persona che invece è libero, come dice lei, di non pagare le tasse, di andare a nascondere i propri soldi in un altro Stato perché non è contento dei servizi pubblici. Se tu non sei contento dei servizi pubblici dello Stato in cui vivi, o emigri e vai a lavorare, a vivere in un posto dove i servizi pubblici sono buoni e paghi aumenti le tasse, va bene, oppure combatti quel sistema e cerchi di fare in modo che i servizi pubblici, oppure ti tiri fuori e dici io non uso gli ospedali, non uso le scuole pubbliche, non uso i treni, non uso le autostrade, faccio tutto privatamente e non pago le tasse allo Stato, perché sennò mi sembra soltanto che stiamo scusando queste persone che sono volgarmente dei truffatori, perché vivono sulle mie spalle con un'imposizione fiscale del 50% che io ho, e quindi questo non si tratta di liberismo, ma si tratta della truffa di un cittadino nei confronti di un altro che è assoggettato a una ritenuta mensile dal proprio stipendio. Quindi se ci vogliamo mettere alla pari, allora toglieteci la ritenuta. Grazie, no, io sono Stefano, è questo il punto, io sono esattamente d'accordo su questo, cioè io sarei per levarvi la ritenuta, perché altrimenti, e avete ragione, tutti quelli che hanno la ritenuta alla fonte dicono troppo comodo, perché consentire agli altri di sfruttare per il proprio reddito d'impresa le possibilità offerte da altri ordinamenti di andarsi a procurare l'aliquota più bassa. Io non posso farlo per l'imposta sul reddito dipendente, e questo è giusto. Naturalmente resta poi il fatto se non si debba dare più libertà a tutti e non solo a una parte, ma comunque questo è un punto di fondo. Sono contentissimo che Stefano abbia innanzitutto posto il punto di vista verso il quale bisogna avere un sovrano rispetto di tutti i lavoratori a reddito dipendente che, ripeto, c'hanno la ritenuta alla fonte. Sentiamo Ferruccio da Milano, prego Ferruccio. Salve, ma io penso che se chi ha la ritenuta alla fonte potesse evadere come evadono gli imprenditori, lo Stato salterebbe, non esisterebbe più lo Stato, perché se in Italia gli imprenditori mediamente guadagnano meno dei loro dipendenti, secondo quanto dichiarato, allora capiamo che il sabotaggio dello Stato fatto dagli imprenditori è pazzesco. Ferruccio, lei dice davvero sabotaggio dello Stato? È convinto di questo, sì? Se il padrone di una gioielleria mediamente guadagna meno di un suo dipendente, lei capisce che quella persona gode di tutti i diritti, se si fa male va in ospedale, curato, eccetera. Però Ferruccio, noi abbiamo fatto tante trasmissioni in cui ogni volta spieghiamo che questa maniera di dare i dati da parte delle agenzie o di elaborarli è una maniera sbagliata, perché altrimenti avrebbe ragione lei. Cioè ci si dimentica per esempio che per quelle categorie, quella che ha appena citato, è possibile lo splitting del reddito in imprese individuali commerciali. Quindi quando lei dice è più basso il suo dipendente, in realtà lei non dice la verità, perché dimentica, e non lo dimentica colpevolmente lei, ma perché l'informazione, chi dà quell'informazione, chi vuole ottenere da lei quella reazione, che è sacrosanta, la capisco, dimentica di dirvi che in quel caso però non si considera il fatto che c'è lo splitting lì, quindi ce lo si distribuisce tra i componenti familiari, o come ovvio ce lo si distribuisce per avere l'aliquota marginale più bassa, però questo non significa che abbia il reddito davvero più basso. Mi scusi se l'ho interrotta, Ferruccio. Non capisco, io so che se uno dichiara poco paga poco, e questo avviene per quasi tutte, se non tutte, le categorie che possono farlo. Sì. Per cui ci sono delle cose assurde, che è quello che avviene per quella categoria, ma per tantissime altre è così. I tassisti, per dire, dichiarano meno di un dipendente di basso salario. Ma è così anche qua a Milano, cioè è così. Quello che invece viene tirato fuori per mascherare questa cosa è quella la situazione, la cosa sbagliata. E il fatto che esistano i paradisi fiscali, l'aveva detto anche Berlusconi, che se ci sono i paradisi fiscali vuol dire che ci sono gli inferni fiscali, quindi è giusto che ci siano, e anche lui li ha usati. Cioè è così, si va nei paradisi fiscali per fregare lo Stato. Va bene, grazie Ferruccio. Io penso che è lo Stato che freghi noi, però io rispetto chi la pensa diversamente. Questo Stato che mi frega non mi piace. Eccoci qui, stiamo parlando di paradisi e paradossi fiscali, il rovescio del diritto tributario internazionale, è il titolo di questo libro del professor Giuseppe Marino, che è ospite con noi per parlare di questo chiaro e scuro, cioè molto scuro oltre che chiaro, di questa lotta ai paradisi fiscali, che è diventata in questi ultimi due anni un pochino il grande segno attraverso il quale i grandi paesi che devono fronteggiare deficit e debiti pubblici pubblici crescenti devono riprendere gettito e lo fanno perseguendo chi apre conti o apre società in paesi che hanno ordinamenti meno statalisti di quelli appunto di chi ha indetto questa grande lotta ai paradisi fiscali. Sentiamo ancora qualche voce di ascoltatore. Alfredo da Roma, prego Alfredo. Salve, buongiorno. Io volevo innanzitutto esprimere una condanna all'esportazione di capitali all'estero, perché si vanno a sottrarre capitali alla società, all'investimento, alla nazione. Ah, cioè Alfredo, però... lei addirittura inneggia l'autarchia, cioè la libertà dei capitali no, bisogna tenere i capitali in Italia. Sì, perché comunque sono una ricchezza che andrebbero a sovvenzionare gli investimenti, a portare benessere alla nazione, alla società. Bene. Però dall'altra parte faccio una riflessione, cioè guardo un attimino il nostro Stato, che è uno Stato che dove la tassazione è esasperata, esagerata, e poi direi un'altra cosa, il nostro fisco si basa sul diritto della sanzione, no? Qualsiasi errore, un minimo ritardo, qualsiasi errore anche nel codice e quindi fiscale, visto che queste sono le caratteristiche dell'ordinamento, visto che queste sono le caratteristiche, lei dice conseguenza? Io dico che comunque poi alla fine la persona esasperata è costretta a portare ecco, ecco, mi sembrava quindi lei ha fatto una premessa autarchica per poi essere però diceva vabbè, però insomma qua si esagera, meglio portarli fuori. Allora lo capisco, lei è diventato realista nella sua conclusione. Silvestro da Rieti, prego Silvestro. Buongiorno, pronto? Dica. Sì. Ecco, io sono un lavoratore autonomo. Ah, quindi qui è in minoranza, sì. Perché io la difendo, ma è tosta qua. Dica. Ma non credo proprio. Innanzitutto io dico, chi ha uno che ripara le scarpe, anche uno che ha una piccola bottega, dal momento che apre un'attività, già è una persona che se va bene guadagna lui e mantiene la famiglia, se va male fallisce e non c'ha nessuna tutela. Stando aperta un'attività, già con le tasse fisse che ha, no? E già mantiene un pubblico dipendente, la più piccola impresa, altrimenti non si reggerebbe in piedi. Quindi ogni autonomo mantiene decine, alcune aziende più grandi, di dipendenti pubblici. Silvestro, io la devo interrompere perché non c'entra con i paradisi fiscali quello che sta dicendo. Vedete, italiani in ascolto, quando si tocca un tema fiscale, oggi noi stiamo parlando della competizione tra ordinamenti internazionali, inevitabilmente l'impostazione dell'ordinamento italiano vi fa cascare nella solita storia di dividervi tra reddito dipendente e reddito autonomo, dicendo è troppo comodo, e l'altro dice ma che, ma io rischio mentre tu c'hai le garanzie, e così via, e così si perde sempre di vista il problema di fondo. Io spero di vivere un giorno in un paese in cui gli italiani non accettano più questa furbizia statalista dall'alto di farci dividere. Allora, facciamo un rapido giro finale. Innanzitutto cominciamo da Terlizzi per avere il termometro. Ma la Svizzera in realtà da 2 anni a questa parte, quali danni veri ha avuto? Perché poi qui si parla di liste nere dal parte dell'Ocse eccetera eccetera, poi alla fine le liste nere non sono mai materializzate. Cioè questi paesi poi certo comprano dati, fanno polemiche, però il coraggio davvero di portare un attacco vero a paesi come la Svizzera, che ripeto in momenti delicati sono un'ancora di equilibrio nella storia mondiale, non viceversa, non ce l'hanno avuta. La Svizzera quanto ci ha rimesso? Quanto è davvero intaccato quel presupposto della riservatezza, la tutela della riservatezza dei dati, che fa sì che in Svizzera insomma ci siano X volte il PIL degli Stati Uniti in impieghi finanziari? Sì, bisogna precisare secondo me 2 elementi. Il primo è che la Svizzera rifiuta un po' la definizione di paradiso fiscale, nel senso che dice di sé di essere un paese a bassa tassazione, a tassazione contenuta. A me sembra che abbia ragione, però vabbè. E dice anche di sé, questo è il secondo elemento, che in realtà è un paese che, pur volendo mantenere la tutela della sfera privata, come viene definita qui, attraverso un certo segreto bancario anche, ma non solo, perché ci sono altri elementi anche normativi, però collabora nel caso vi siano dei reati riconosciuti come tali con le autorità di stati esteri. Detto questo, è abbastanza paradossale, a proposito di paradossi, in effetti questo lo dicono in molti osservatori internazionali e non solo svizzeri, che la Svizzera venga attaccata proprio in una fase storica in cui semmai ha allentato il segreto bancario, che è meno coriaceo di prima. Sul piano dei danni che ha avuto la Svizzera, certamente un danno d'immagine c'è stato, perché è stata accreditata in questi ultimi due anni appunto un'immagine della Svizzera molto negativa, quasi da capro espiatorio insieme ad altre piazze finanziarie, ma più di altre perché è la piazza leader nella gestione dei capitali cosiddetti offshore, cioè oltre frontiera. Sul piano economico resta ancora tutto da vedere, perché in realtà la Svizzera gestisce qualcosa come 3.300 miliardi di euro stimati dagli analisti più esperti da questo punto di vista, una parte considerevole, circa la metà forse di più, è di capitali offshore. Anche con gli scudi fiscali recenti la Svizzera ha subito un deflusso di capitali senza dubbio, ma come dimostra la polemica che c'è anche in Italia in queste ore, una parte di questi capitali, ad esempio attraverso i rimpatri cosiddetti giuridici e non fisici, viene lasciata in gestione in Svizzera. Quindi c'è stato un danno certamente d'immagine, c'è un danno economico forse per ora contenuto, si vedrà in prospettiva. Certo, per ora la Svizzera resta la principale piazza di gestione di patrimoni a livello internazionale, e forse non solo per via del segreto bancario, ma si dice qui anche per una certa professionalità. Va bene, professor Rottieri, 20 secondi di considerazioni finali, se il fatto che lei creda davvero che ci sarà una lotta mortale oppure una recita quella in corso. Ma io credo che non sia del tutto una recita, perché effettivamente c'è qualcosa in gioco di importante. In fondo bisogna capire che dietro a questo c'è lo statuto della proprietà. Fino a che senso noi siamo, in che modo noi siamo proprietari dei nostri beni. Non dimentichiamoci che nella Germania Est d'antan perfino espropriare, cioè perfino uscire, era considerato un'esportazione di capitali, perché la collettività aveva investito nella tua formazione culturale. Ecco. Tutta una serie di interventi che abbiamo sentito di ascoltatori ci dicono che questa idea per cui i capitali sono nazionali, non sono del titolare, ed è molto forte, ed è un'idea che la classe politica attende chiaramente a consolidare a proprio beneficio, evidentemente. E a beneficio naturalmente dell'erario, cioè dello Stato, che poi è così inefficiente. Contenti voi, cittadini in ascolto. Io vi invito a leggere Paradisi e Paradossi Fiscali, ancora una volta, IGE editore e l'autore, il professor Giuseppe Marino, che molto ringrazio per essere stato insieme a noi con il professor Lottieri e con Lino Terlizzi. L'appuntamento è a domani.